facciamo questa speaker story di Marco Gualdi, la facciamo con la mia introduzione, che sono Simone, chiaramente non sono Marco Gualdi. Marco Gualdi è quest'altro. Ciao. Sei? Sono io. Chi? Io. Marco? Ah, vuol dire il nome. Nome. Sono Marco. Sei Marco. Ok. Marco. Allora Marco. Io sono Marco. Marco, tu fai. Sei Simone, io Marco. Io sono Simone. È tutto chiaro, perfetto. Infatti siamo Simone e Marco, un po' come WandaVision. Che schifo. Marco, oppure Marco Simone, che sta qui vicino. Marco Simone, esatto, bravo. Che è vicino Guidonia, vero? Esatto, un quartiere. Diciamo. Quartiere, sì, una zona residenziale si chiamano. Comunque, Gualdi, tu quando hai iniziato a fare lo speaker insieme a noi? Non lo so, non mi ricordo, ero troppo giovane, avevo almeno 10 anni di meno, almeno. Dieci anni di meno. Come, ma, quindi perché, 10 anni fa. Come ti è venuta questa voglia? Non mi è mai venuta in realtà. Io stavo facendo le mie cose, mi stavo tagliando le unghie, facendomi la barba. Pizzi, vieni qui che c'è una cosa che devi fare assolutamente, perché ci serve il terzo che rompe le palle. A fare cose, niente, tu vieni qui a fare podcast. E che è podcast? E vieni qui, tranquillo, che tu dici le cose, dici due cazzate e poi vieni. E quindi tu non lo sapevi neanche cos'era un podcast? Diciamo che avevo un sospetto che fosse qualcosa che si chiacchierava, che si parla di qualcosa di parlare, però di parlare. Che poi dopo non lo sapevi allora, ma non l'hai saputo neanche dopo. Continuo a saperlo adesso, sono contento di esatto. non saperlo. Cioè, nonostante l'hai fatti tanti poi dei podcast. Fatti troppi pure. Pure troppi. Troppi. Quanti, che cos'è, quali podcast hai fatto? Beh, ho fatto archeologia videoludica, bello, l'oscilloscopio. Sì, rimane sempre una pietra miliare. Sì, una pietra miliata. E poi dietrologia videoludica. Beh, dietrologia videoludica era un bel programma. Bello. Anche videoludica. Tra l'altro dietrologia videoludica tu hai fatto anche il primo logo. Bellissimo, il più bel logo della storia dei loghi d'Italia. Però purtroppo il mondo non era pronto. Soprattutto la parte delle chiappe. Ma capirai, c'è The Peggio in televisione. Infatti, a me piaceva tanto. E noi eravamo in radio, quindi pensa quanto eravamo avanti. Esatto, nessuno l'avrebbe mai visto il logo, però. E niente, vabbè, comunque in ogni caso sì, quello poi ho fatto videoludica, poi ho fatto bello pure videoludica. Peccato che sono tutte cose che muoiono. Poi OGM, bello OGM, pure quello è bello, OGM, però non muore. Però quello ancora non è morto. Ancora non muore. Però è bella la sigla che se, insomma, bello. Diciamo, hai contribuito. È bello, perché quelle sono le zingarate, no? Le cose che ti vengono dentro così all'improvviso. È l'estro del genio, hai capito? Esatto. È l'artismo. Per abbellire poi, no? Tutto sommato. Assolutamente, no? Perché comunque da quella bellissima. Quell'aura di nobiltà, tutto quanto, certo. Poi Multimanie, tutte quelle trasmissioni un po' esterne, diciamo. Sì, io neanche me le ricordo. Multimanie, sì, bella Multimanie. Multimanie pure in radio, addirittura. Addirittura in radio, un'altra web radio che adesso non c'è più. Bella, sì, anche quello, tante belle cose. Ma che cazzo ho fatto? Pizzi, che altro ho fatto? Io mi ricordo di telefilmanie. Quasi tutto ciò che era con Manie. Era Manie, esatto. Sì. Quasi tutto, ci ho messo lo zampino. Cioè, mo c'è Ludico Forum. Lì non partecipi tanto. Sì, non c'hai molto da dire. No, a parte ultimamente non c'hai molto da dire in generale. Si fanno troppi discorsi seri. Troppo seri. Invece tu vorresti fare cazzate dalla mattina alla sera, sì. Però per esempio tu hai anche progettato, cioè era quasi in fase di partenza un bellissimo podcast che poi non si è più fatto. Chissà se troviamo in fase di partenza. Abbiamo fatto 5 anni fa il promo, il demo, come siamo chiamati? Il pilot. Abbiamo fatto 5 anni fa. Bello, perché, sì, ma perché quella è la puntata 0. Poi per mettere su la puntata 1 stiamo studiando. Esatto, c'è tempi, la perfezione. Poi c'erano altri cantanti, pure i pezzi. Tanti musicali. Cantanti, mi ricordo James Hanoff che è bellissimo. Dei pezzi, un pezzo proprio commovente, The Night Sky on the River, bellissimo. Esatto. Stupendo, la commozione, c'è la pelle d'oca ancora di brividi. Infatti le canzoni erano la parte più bella. Esatto. Esatto. E vabbè, quello poi non si è più fatto. Come si chiamava? Gordon Bleff. Gordon Bleff. Sì. No, non è che non si è fatto. Stiamo realizzando la portata. Vuole tempo, bisogna. Siamo a un buon punto. No, mi piacerebbe sapere se trovo da qualche parte il file, perché sarebbe anche carino risentirlo, no? Com'era? Perché insomma. Da qualche parte, cioè, tu forse da qualche parte ce l'hai, no? Io no. No, impossibile. Perché dovresti avere? Perché devo conservare le cose. Esatto. Vabbè, ma insomma, tutti questi anni, no? Adesso sì. Che siamo diventati anche web radio, è figo, no? Sì. Molto figo, no? Se trasmettiamo 24 ore. Ce la fa fare. Ce la fa fare. Ti sei divertito, però, dai. Sì. Ho conosciuto tanta bella gente. Esatto. Alcune si è persa per strada, ma non è colpa nostra. No. O forse lo è, non lo sapremo mai. Vabbè, non è importante. No. Cioè, chi c'è rimane, chi non c'è. Ciao. Esatto. Però insomma, dai, comunque alla fine ti sei divertito, hai conosciuto tante cose, hai conosciuto tante persone, tante manie e anche tante cose. tanti eventi, tante belle cose, bello. Tante mode, tante bello. Sì, persone, cose, animali, città, testamento, lettere, tante belle cose, sì. Ti arricchisce dentro. Nelle tasche no, però dentro sì tanto. Sì, ma abbiamo lasciato un po' di confusione dietro. Una volta si chiamava così, poi si chiamava colà. Ma come si chiama? Tu lo sai come si chiama? Ma che cosa? La confusione? La radio. Ah, la radio, si chiama Runtime Radio. Esatto. Ma che ti faccia la sigla al volo? Dai. Runtime Radio. Sì, che ci vuole, ma un attimo, esatto. Fa le sigle. Infatti. Pensa che Carlo, il nostro amico Carlo Burigan, ci ha studiato una vita per fare il sound design. Invece noi ci vuole un attimo, ecco, sì. Esatto, Carlo, noi spicciamo casa, insomma. Esatto. O tu ci spicci casa a noi, chiaramente. Non si sa. Vabbè, dai, comunque 10 anni alla fine diventa non sentirli. E non sentirli, oppure li senti. Un po' li senti, dai. No, se me li ricordassi li sentirei. Esatto. Tendo a dimenticare. Vabbè, ma il fatto che tu non li ricordi fa parte del fatto che li senti. Ah, voglio, certo. Esatto. Posso riviverli uno da capo come se fosse la prima volta. Perché poi uno li rimuove, no? In qualche maniera. Esatto, si dice che si rimuovono i traumi, però vabbè. Vabbè, senti, allora io direi che può bastare così questa tua speaker story per Runtime Radio. Spero che sia stata esauriente. Hai un progetto nel cassetto per la radio, qualcosa che io vorrei fare questa cosa qua. Cioè, no. Se proprio dimentichi. No, anche perché sono impegnato con Gordon Bleff, quindi stiamo preparando la prima puntata, insomma, cioè, quindi è una cosa che ti riempie tanto, quindi pensa quanto è complicato. Ti riempie. Vabbè. E saluta gli ascoltatori. Saluto tutti gli ascoltatori di Runtime Radio. Potrei dirlo come DJ in 80. Ehi, saluto tutti gli ascoltatori di Runtime Radio. Oppure come quello di come si chiamava? Provo lui, chi? Lo speaker, quello che parlava così. Cioè, adesso ci ascoltiamo la canzone. Ti ricordi? No. Quello che Luca Casciola dice sempre. Vabbè, fa niente. Comunque, com'è il sito? Saluta il sito al sito. Sarà runtimeradio.it, sarà. Ok, bravo. Perché noi abbiamo la fantasia, giustamente. Ma poi c'è consapevolezza, insomma, in quello che tu. Esatto. Ho tirato a indovinare, ci ho indovinato, quindi significa che è semplice la cosa. Esatto. Deve essere semplice. No, è importante essere consapevoli dei progetti ai quali si fa parte anche involontariamente. Esatto. Va bene, saluto a tutti. Ciao, vi saluto, ci sentiamo la prossima volta su OGM o Ludico Forum o quello che è. O la prima puntata di Gordon Bleff. Esatto, è puntata 101. Stiamo preparando. Esatto. Attendete, arriverà. Se ci ricordiamo com'era poi. Va bene, ciao.